interventi che sarà già oltre qua e passato pure. Se oltre qua è passato pure già lo sentiamo. Accompagnava fino a certo a punto di sua macchina. Qual è il problema? Ma avrebbe chiamato. L'abbiamo detto di passare qua, avrebbe chiamato. Ecco, paga, passa la risposta, se io vedo non ha lavorato. Non mi sembra non lavorare oggi, no? No. Oh, così mi pare che avrebbe detto ieri. Non lo so. Dove sono, è molto lontano comunque, non è gente di vicino.